9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon inizio di settimana, buon lunedì 30 novembre, l'abbiamo annunciato pochi minuti fa e oggi con noi per la prima intervista ai microfoni di Radio 24 dopo il suo esordio ieri con la prima intervista al Sole 24 Ore, Vincenzo Boccia, appena eletto presidente della piccola industria di Confindustria. Buongiorno presidente. Buongiorno a lei. Ecco, prima di entrare nel merito, perché oggi naturalmente approfondiremo un pochino tutti i punti che saranno centrali nel suo mandato, qualche parola di presentazione, perché lei un po' ce lo deve spiegare, si deve presentare, sarà inevitabile e sono i prezzi che si pagano quando si infittisce l'impegno pubblico, il profilo pubblico del proprio impegno, ma insomma un minimo deve dire come nasce e quali sono le premesse di questa sua, presidenza, nel senso che chi conosce il sistema confindustriale sa che è impegnato già da anni con i giovani di Confindustria, poi in Confindustria Campania e così via, ma in realtà nella sua impresa di famiglia quando è maturata l'idea di occuparsi non solo dell'azienda ma anche del sistema e perché? Ma direi che viene da un profondo senso civico e una grande passione, per l'impresa e quindi per le politiche delle imprese, la consapevolezza personale e familiare che attraverso il mondo associativo si possa cambiare in meglio quelle che sono e potrebbero essere le politiche per le imprese. E quindi, siccome questo mestiere è fatto di vocazione e di passione, il percorso naturale era su due livelli: una grande attività, diciamo, interna all'impresa, e la seconda invece un grande confronto con i colleghi all'interno dell'associazione. Quanto ha contato nella evoluzione e poi nell'innalzamento, diciamo così, della rilevanza e della visibilità, oggi come oggi anche naturalmente, dei suoi incarichi associativi, il fatto che la sua impresa fosse nel Mezzogiorno, fosse a Salerno, quanto toccava con mano nel progredire degli anni del suo impegno che la realtà del Mezzogiorno e del fare impresa nel Mezzogiorno incontrava maggiori difficoltà invece che minori, come sembrava 2-3 decenni fa fosse la prospettiva del nostro Sud? Nel senso che vivere, diciamo, in alcuni contesti dove alcuni problemi sono emergenze più che disagi ti aiuta, come dire, a definirne e a risolverne le complessità, e quindi questo aspetto ha contato in questo senso, in una maturità della complessità del mondo dell'impresa e delle sue difficoltà. E ha contato però, diciamo, facendomi comprendere quanto siamo simili noi imprenditori al nord e al sud e al centro e come siamo legati alle nostre imprese. Questo senso di comunità, questo legame alle nostre persone prescinde dai territori, e questo è un elemento importante che fa delle imprese, in particolare delle piccole imprese, una comunità, e per molti di noi e delle persone che lavorano con noi un progetto di vita. Ecco, questo, diciamo, ha contato, ma non lo vedo come una differenza, diciamo, interna al paese, anzi ho riscontrato dappertutto questo grande sentiment verso le imprese italiane. E tutto sommato è anche vero che nel confronto che sta diventando un po' lo stile, secondo me un bello stile di Confindustria, che finalmente le scelte per gli incarichi di maggior rilievo non avvengano nel chiuso delle segrete stanze, ma insomma ci si confronti su programmi con candidature esplicite, e poi quello che conta è naturalmente che i presidenti eletti nel sistema siano i presidenti di tutti. Però quello che volevo dire è che mi sembra anche che non ha avuto particolare rilievo, forse anche per quello che diceva, il fatto che la gara per la presidenza dei piccoli sia venuto sì tra un imprenditore del nord e uno del sud, ma senza che poi fosse la faccenda nord contro sud o sud contro nord l'elemento distintivo che all'interno faceva il confronto tra le due candidature, o no? Beh, direi di sì, c'è stata qualche strumentalizzazione solo a mezzo stampa, ma assolutamente no. Confindustria ha dimostrato anche in questo momento che Confindustria è una associazione protagonista di una visione che è della società moderna, una società aperta, una società che include e non esclude ceti dirigenti e prescinde, come dire, dalle provenienze. È stato un bellissimo confronto, un confronto serrato, da cui sicuramente ne deriverà del bene per il sistema Confindustria, e in cui era chiara sin dall'inizio l'idea di un confronto che vorremmo trasferire a tutto il paese, perché parte della nostra formazione interna proprio al Palazzo di Confindustria, lei ha ricordato il mio passato tra i giovani imprenditori, e cioè di un paese che vive di confronto e muore di conflitto. Noi abbiamo molto chiaro la differenza tra confronto e conflitto. Vediamo un pochino di entrare nel merito. Lei è, diciamo così, succede a un presidente Morandini che insomma, nei 4 anni del suo mandato si è speso molto, per così dire, ha veramente battuto l'Italia dall'Alpi alle piramidi come, e dal Malanzanare al Regno, come, al Reno, come diceva la vecchia poesia, ma al di là del tempo ci ha messo molta passione, è diventato un punto di riferimento non solo all'interno del sistema Confindustria ma anche fuori, insomma è stato veramente protagonista di un balzo nella rappresentanza dei piccoli in Confindustria. Marcegaglia, presidente di Confindustria, dice sempre: sono lieta di sottolineare che con la mia presidenza mi porto sempre il presidente dei piccoli, e quando si va a Palazzo Chigi c'è una svolta vera di piena condivisione tra i grandi gruppi e i piccoli all'interno di Confindustria, sottolinea il presidente. Ecco, dopo questo, lei come ha vissuto questi 4 anni di Morandini? Insomma, rendiamogli un minimo di tributo prima di passare poi nel merito del suo impegno e del suo mandato. Che cosa riconosce al presidente uscente come tentativo di annullare questa vecchia tradizione che c'era nella Confindustria, in cui il presidente veniva scelto da grandi gruppi sempre di Torino eccetera, in cui i piccoli erano sì la maggioranza ma in punta di piedi quanto all'agenda vera? Beh, intanto mi permetta di ringraziare quanto ha fatto Morandini grazie, diciamo, a questa intervista. Io sono stato vicepresidente di Morandini e quindi ho vissuto questo quadriennio accanto al presidente Morandini insieme ad altri colleghi. Che cosa, diciamo, lascia Morandini? Morandini lascia, diciamo, un'eredità importante per la piccola industria, un brand elevato, direi, di piccola industria, è una grande aspettativa che è la nostra grande responsabilità e il nostro grande impegno, chiaramente, che verrà nei prossimi 4 anni. Un'attenzione elevatissima al territorio, una grande capacità di ascolto prima ancora che di comunicare, e penso che questo sia stato uno dei grandi valori della presidenza Morandini. Lo ha ricordato lei, ha girato l'Italia ed è stato sempre presente nelle territoriali in questa grande capacità di ascolto, che da cui poi ne è derivato appunto i nostri convegni, le piattaforme rivendicative, sforzo di comunicazione interno in Confindustria. Ricordo una delle tante, la rivalutazione dei beni immobili che siamo riusciti ad avere, è stato un percorso interno a Confindustria che è partito dal convegno di Bologna della piccola, che poi è stato fatto proprio da Confindustria, per noi è stata una grande conquista, e poi si è portato a soluzione con questa ottima legge che permette la rivalutazione degli immobili con il 3% di imposizione fiscale. Ecco, giusto per dirne una in termini pragmatici, questo è stato un percorso che è derivato dalla tanta politica di ascolto di Morandini, da cui poi sono derivate idee, contenuti, progetti e molte volte alcune soluzioni. Ora, siamo appena freschi dai nuovi dati dell'Osservatorio del Centro Studi di Confindustria, che aggiornano la fotografia dell'evoluzione della crisi e rispetto agli andamenti dell'economia reale nel nostro paese. È confermato ciò che negli ultimi mesi tende a diventare un fenomeno congiunturale sempre più rilevante, cioè una timida ma insomma significativa, speranzosa ripresa degli ordinativi del fatturato in una produzione industriale che resta però, se uno fa il paragone sui 12 mesi precedenti, a doppia cifra negativa, con un segno molto pesante, insomma più o meno 20 che meno 15, e con settori in cui gli ordinativi e il fatturato alla ripresa del commercio mondiale ancora non riescono a risalire oltre il meno 30 e meno 40 rispetto a un anno precedente, e soprattutto la manifattura, tra le 4 A che reggono l'attivo della nostra bilancia commerciale, la manifattura e la manifattura meccanica in particolare, i diversi comparti del meccanico che su questo stentano la ripresa e iniziano a diffondere un interrogativo, cioè se in questo particolare settore che ha molto rilievo, sono circa più di 40 miliardi di euro di attivo commerciale nella bilancia commerciale del nostro paese, sugli oltre 60 miliardi di euro che sono le 4A che trainano le nostre esportazioni. Ecco, ci si inizia a chiedere, presidente Boccia, se in particolare nella meccanica non siamo in presenza, a un anno e qualche mese dalla crisi di Lehman Brothers, non tanto solo agli effetti della stentata ripresa del commercio mondiale, ma se non siamo in presenza di qualche cosa di più epocale, di strutturale, cioè forse della maggiore manifestazione concreta della crisi nell'economia reale sopravvenuta a quella finanziaria, cioè di una grande ridislocazione dei fattori della competitività, dell'insediamento stesso di intere filiere della meccanica verso paesi in cui non solo i costi sono più bassi, ma anche il valore aggiunto è più basso, e questo in ragione di una ridislocazione appunto dei fattori competitivi di intere filiere della meccanica. Allora, questo che sta diventando l'interrogativo un pochino sempre più pesante, che mese dopo mese, aggiornando i dati, chi segue i mercati ha l'obbligo di porsi rispetto alla particolare specificità della specializzazione produttiva del nostro modello industriale, vede naturalmente la rappresentanza di imprese con una doppia responsabilità, perché da una parte si tratta di chiedere alle forze politiche, a tutti gli attori del dibattito pubblico italiano, di interrogarsi sulle misure che sono state assunte fino a questo momento e sulle nuove di cui parleremo, che sono in cantiere. Dall'altra, se davvero così fosse, cioè se, ripeto, se in alcuni segmenti della meccanica non si tratta tanto di attendere la ripresa quanto di prepararsi a ristrutturazioni molto profonde che devono vederci in grado di passare verso altre lavorazioni o segmenti più elevati del valore aggiunto, oppure di spostarci su altre produzioni, certo per l'impresa capire questo passaggio è molto difficile. Qual è la sua impressione? Siamo davvero in presenza forse di una ridislocazione così profonda, in particolare per la meccanica, oppure dal suo punto di vista, dal suo osservatorio, si può sperare che col rafforzamento della ripresa del commercio mondiale in realtà le lavorazioni in cui ci difendevamo bene, avevamo investito parecchio, eravamo forti in valore aggiunto, riprenderanno, e si tratta semplicemente quindi di consentire all'imprenditore di avere più credito, avere il giusto capitale, ma di aspettare per ripartire? Lei che pensa? Noi pensiamo questo. È chiaro che la recessione ha causato, diciamo, un meccanismo acceleratore. Cosa voglio dire? Voglio dire che è evidente che tutte quelle produzioni che riguardano la meccanica, ma anche altri settori, a bassissimo valore aggiunto e ad altissima intensità di lavoro, erano già orientate, ai noi, verso paesi a basso costo di manodopera. E quindi questo però ci fa comprendere quale dovrebbe essere la caratterizzazione di un paese come il nostro, che dovrebbe invece attrarre investimenti capital intensive, che sono quelli più difficilmente imitabili e tra l'altro più difficilmente attaccabili da questi paesi dove il costo del lavoro è molto basso e quindi con lavorazioni cosiddette labor intensive. Ecco, già da questa domanda che lei mi fa mi permette, come dire, di dare un'idea che è quella di una visione di un paese, cioè la domanda a cui dovremmo rispondere è come immaginiamo possa essere il nostro paese tra qualche anno, con scelte immediate chiaramente, perché la rabbia e la solitudine di molte nostre imprese dal nord al centro al sud del paese è rilevante, perché appunto si sta vivendo questa fase delicata che però ha, come dire, dentro di sé molti elementi positivi di reattività. Allora, se è vero come è vero che il nostro paese deve caratterizzare la sua impresa, la sua industria su elementi capital intensive, evidentemente è venuto il momento in cui una politica per le imprese è una politica per il paese, e cioè la vera questione nazionale comincia ad essere l'economia e lo sviluppo, e quello che abbiamo definito un intervento di politica economica che tenga ben presente, diciamo, la direzione della politica economica per le imprese, ossia aiutando, tra virgolette, le imprese ad investimenti capital intensive. Semmai poi dopo, da certo, quello che ho sentito, visto che ne parliamo, come dire, facciamo qualche riflessione su come poi, diciamo, questa politica dovrebbe esprimere questo percorso. Oh, prima di arrivare a questo, posso chiederle una riflessione su come si sente, pensando che colleghi, magari suoi concorrenti nello stesso ramo di attività della sua impresa, e che magari hanno sede di stabilimento, headquarter in Francia, in Germania, in questo anno, per la differenza condizione del debito pubblico di quei paesi, hanno potuto contare, diciamo, su interventi strutturale di sostegno, beh, molto molto molto più forti di quelli che il governo italiano ha potuto mettere in cantiere. Io ricordo che il fondo per la Mittelstand, cioè per la piccola e media impresa tedesca in Germania, è tra le diverse componenti ammonta a 100 miliardi di euro. Gli interventi che all'interno del sostegno pubblico della politica francese sono rivolti poi alla piccola e media eccetera sono oltre 25 miliardi di euro. È stata annunciata la scorsa settimana la Grande Emprunt, cioè questo grande prestito nazionale, che sono altri 15 miliardi di euro, con alcune priorità come la ricerca e ancora una volta la piccola e media impresa in Francia. Ecco, cosa significa per un imprenditore italiano e per chi fa rappresentanza all'impresa dovere in qualche maniera capire e giustificare che i nostri concorrenti nella stessa unità di tempo in cui noi abbiamo dovuto centellinare gli aiuti hanno tutto questo sangue aggiuntivo messo in circolo invece dai governi? Beh, questo genera appunto quello che ho definito la rabbia che dovremmo cercare di trasformare in passione. È evidente che la prima concorrenza che noi abbiamo è una concorrenza tra europei ed è evidente che queste politiche di questi paesi non aiuteranno le imprese italiane se continuiamo, diciamo, a essere un attimo fermi su questa posizione. Quindi qui bisogna fare una grande attenzione, perché quello che non facciamo oggi lo pagheremo domani. Ecco, noi dovremmo considerare una politica per l'impresa come una priorità prima di fare i conti con le emergenze del futuro. E come ci sentiamo? Ci sentiamo da un lato all'interno nei termini di elevare la nostra capacità di reazione, come abbiamo fatto sempre, anche se un po' arrabbiati, perché come sempre dobbiamo andare avanti per traumi e non per pianificazione. Siamo consapevoli che però il nostro paese è il terzo debito più grande del mondo, ma siamo anche consapevoli che la politica è fatta di priorità e quindi nella trinomio impresa, lavoro, famiglie forse è arrivato il momento di fare delle operazioni che cronologicamente privilegino le imprese, perché grazie a esse si tutela il lavoro, che tra l'altro oggi, come dire, vede una disoccupazione elevata e le imprese forti di domani potrebbero assorbirlo, e grazie a questo si dà fiducia, ottimismo sul futuro e quindi alle famiglie. Allora dobbiamo ritornare, diciamo, proprio perché i nostri cugini europei cominciano a muoversi in maniera anche significativa sul tessuto delle piccole imprese. Ricordo tra l'altro che l'Italia ha un tessuto quantitativamente molto più elevato rispetto a questi paesi che lei ha citato, che tra l'altro invidiano il tessuto di piccole imprese italiane, e forse è arrivato il momento in cui si cominci, come dire, a dare una vera dimensione di ruolo sociale all'impresa e a capire che in questo paese in cui non abbiamo materie prime l'elemento di ricchezza e la garanzia di libertà è l'impresa. Io sto usando volutamente il termine impresa e non imprenditore, perché qui la questione non è, come dire, di interessi di una categoria, ma la questione è di comprendere se la politica per le imprese è una politica che va verso la direzione delle esigenze del paese, superando appunto gli interessi del paese, e se riusciamo a tornare a quel sano spirito degli anni 60 e 70 in cui la piccola impresa era considerata parte della comunità dal sindaco, dal presidente della Camera di Commercio, dalla banca. Oggi l'impressione è che la piccola impresa e la grande impresa e la media impresa siano considerate una comunità ma a parte, come se non fossero più integrate nel concetto di comunità complessiva del paese. Ecco, noi dobbiamo ritornare, come dire, a quel concetto per avere una politica forte per le imprese, per avere imprese forti e per avere un paese forte, che è la prima cosa, diciamo, a cui dovremmo ambire, per l'amore, diciamo, che lega tutti noi a questo nostro paese. Eccoci tornati in studio, stiamo facendo con Vincenzo Boccia, appena eletto presidente della piccola industria di Confindustria, una riflessione approfondita all'inizio del suo mandato. Ecco, iniziamo un pochino a giudicare gli strumenti che sono stati varati in questo anno alle nostre spalle. Cominciamo non tanto dal fondo di garanzia per le piccole e medie, di cui magari ci sarà da battersi per avere un potenziamento delle sue linee di finanziamento da parte del governo, quanto dalla moratoria di un anno per la restituzione delle rate degli impieghi finanziari garantiti dalle banche alle imprese. Il bilancio che fanno i piccoli di Confindustria sul proprio territorio dell'attuazione della moratoria, qual è, Presidente? Direi un po' a geometria variabile, diciamo. Ci sono state delle richieste, chiaramente alcune realizzate. No, è chiaro che questo riguarda, diciamo, le imprese che hanno più sofferto in questa fase, e quindi sotto questo aspetto abbiamo dei dati che stiamo proprio analizzando, quindi non abbiamo ancora tutti gli elementi in mano. Quella, diciamo, che è la sensazione è che ci sia stata una risposta, però, come dire, non così veloce come avremmo immaginato. Lei rifletteva prima sul fatto che noi abbiamo bisogno di sostegni per dare all'intensità di capitale delle nostre imprese un maggior rafforzamento. Da questo punto di vista, i piccoli hanno elaborato, è fresco di poche settimane fa, una proposta, quella della T-Holding, su cui le chiederei di ritornare. Il governo nel frattempo pare che sia addirittura d'arrivo nella elaborazione di una proposta, di un'altra proposta che nasce dal sistema Confindustria. Mesi e mesi fa, oramai 8 mesi fa, Confindustria iniziò a chiedere al governo, oltre a provvedimenti che avessero impatto sul conto economico delle imprese in difficoltà, anche misure volte appunto a sostenere gli attivi patrimoniali delle imprese in difficoltà, stante la storica sottocapitalizzazione delle nostre imprese. E quindi il governo sta lavorando, a quanto pare, su quest'idea del fondo per la ricapitalizzazione e l'aggregazione delle piccole e medie imprese. Ecco, le chiederei di fare una riflessione da una parte su quello che ha significato la proposta T-Holding, un po' il canto del cigno di Morandini al convegno di Mantova, dall'altra dei primi elementi che sono a sua conoscenza di ciò su cui sta lavorando il governo per questo fondo, 3 miliardi di cui il primo dovrebbe essere messo a disposizione tra banca, cassa, depositi e prestiti e così via. Qual è il punto della riflessione e come siete impegnati nell'elaborazione insieme al governo, se siete impegnati insieme al governo nell'elaborazione di queste misure? Beh, questa è una misura importantissima, perché mette quella famosa terza gamba di rafforzamento delle imprese. E quindi, tra l'altro, è importantissima anche perché prevede, diciamo, non un'attività prettamente speculativa, ma prevede una presenza nelle aziende di 10-15 anni, quindi una visione di lungo. Quindi è un fondo che permetterà a coloro che lo vorranno di aprire i propri capitali in una logica di lungo periodo e in una filosofia di rafforzamento patrimoniale delle imprese. È chiaro che tutto questo va fatto con piani molto chiari di ristrutturazione, di visione, di crescita, di sviluppo e di progetto. Quindi aiuterà sicuramente noi imprenditori a informare e a essere critici su quelle che saranno le politiche del futuro che intenderemo fare. Aiuterà perché non sono, diciamo, fondi che nascono da una idea speculativa, ma sono fondi che ci accompagnano per un periodo lungo. Evidentemente aiuteranno, diciamo, le imprese e gli imprenditori a un percorso di crescita e ad un rafforzamento importante. Quindi il fondo per la capitalizzazione direi che è la grande precondizione di un percorso di evoluzione del capitalismo italiano, che deve cominciare ad aprire le sue porte a istituzioni che però giustamente non siano speculative, perché ricordo che proprio dalla speculazione noi oggi paghiamo un conto salato, perché ci si è distratti nel mondo. Non è accaduto, chiaramente la bolla è arrivata da fuori e non dal nostro paese, però ci si è distratti dai cosiddetti fondamentali dell'economia e si è andati, diciamo, su altri elementi di speculazione. Quindi questo è un elemento importante. Quanto alla T-Holding, stiamo anche cercando di lavorare con le categorie per capire come calare, diciamo, questo progetto, e a cui abbiamo aggiunto l'idea del partenariato imprenditoriale. Cioè, è arrivato il momento delle alleanze, che non sono necessariamente solo fusioni, che non sono necessariamente solo fusioni o consorzi o alleanze anche su alcune linee, come potrebbe essere un'area commerciale o altre cose, perché, diciamo, queste devono riguardare non solo imprese che stanno vivendo un momento difficile, ma anche il rafforzamento di imprese che hanno o stanno vivendo momenti meno difficili o comunque momenti importanti della loro vita, e il paese deve, diciamo, orientarsi, e le imprese, verso un percorso di crescita. Quindi tutti gli strumenti che la politica mette a disposizione per la crescita delle alleanze, e la cultura degli imprenditori che deve orientarsi verso le alleanze, perché il futuro sarà fatto di partenariati, sono i due elementi su cui si giocherà la grande partita, diciamo, sui mercati del mondo. Oh, Presidente, tradizionalmente, diciamo, una obiezione forte, storicamente anche secondo me motivata, è quella di dire: ma in realtà poi i piccoli imprenditori italiani, quando si tratta veramente di valutare se un fondo di private equity entra nell'impresa per rafforzarli, o se le banche a quel punto entrano con presenza nel capitale, trasformando magari in momenti di difficoltà i crediti in presenza stabile nel capitale, ma i piccoli sono i primi che diffidano perché non vogliono esporre davvero la propria situazione contabile, i propri andamenti, diffidano. Allora le chiedo, di fronte a questa idea di estendere il concetto di reti, tra l'altro reti d'impresa è un concetto che nel nostro ordinamento entra proprio con il disegno di legge sviluppo, il decreto convertito a fine luglio, e quindi si tratterà adesso di riempirlo di contenuti, capire bene che cosa può essere una rete d'impresa che non nasca dall'idea di fondersi. Ma le faccio due esempi concreti. Bisogna aspettarsi, per esempio, nel consolidato fiscale introdotto in finanziaria l'anno scorso e in attesa di essere implementato, di vedere i piccoli di Confindustria che faranno delle riflessioni intorno a come mettere insieme i propri attivi patrimoniali per filiera, per equilibrare il dare fiscale e l'avere fiscale, e proponendo quindi al ministro, all'agenzia delle entrate, modelli di consolidato fiscale per filiera che diano un'idea che cosa vuol dire rete d'impresa senza fondersi. Avverrà lo stesso, per esempio, parlando come interlocutore al sistema bancario per trasformare i bond di distretto, che in Italia non ci sono praticamente, ce ne sono solo 4 su oltre 200 distretti e industriali su cui siamo tutti bravi a fare i convegni. Bisogna attendersi che i piccoli dicano alle banche: invece di fare chiacchiere abbiamo elaborato un nostro modellino per gli attivi patrimoniali condivisi, non solo con i rating finanziari di Basilea, su questa base, su quanto spendiamo di capitale umano sui nostri dipendenti, sulla regolarità dei nostri pagamenti, cioè al di là di quello che c'è scritto nei nostri dati finanziari di Basilea, vi invitiamo, ce lo date un bond di distretto o cose no? Faccio questi esempi concreti, ma per far capire a chi ci ascolta, che magari non ha un'impresa, non è un grande esperto, che l'idea di fare rete senza fondersi può essere piena di cose concrete, no? Assolutamente, anzi direi che può essere a cui si può arrivare anche alla fusione, ma non necessariamente. Quindi l'idea di rete deve essere un'idea aperta, diciamo, a una serie di concetti di alleanze. Prima facevo l'esempio, il Giappone anni fa, diciamo, esprimeva grande idea di rete. All'interno molte società tra di loro concorrenti del Giappone si facevano concorrenza e all'esterno facevano le reti commerciali comuni per vendere nel mondo. Ecco, quello è stato, diciamo, un esempio di rete fatto, come dire, a uso esterno del paese, e all'interno poi invece quelle stesse aziende si facevano concorrenza. Ecco, noi dovremmo entrare, diciamo, in questa grande filosofia, perché da questa poi deriva la sopravvivenza del tessuto imprenditoriale italiano. Quindi dobbiamo essere bravi a fare questo. Faccio un esempio: se noi andiamo in alcuni paesi, come potrebbero essere i paesi del Mediterraneo, andiamo solo con la logica di vendere, quindi da produttori e non tanto da imprenditori, evidentemente troveremo dall'altro lato imprenditori come noi che vorrebbero vendere altrettanto loro a noi qualcosa, e quindi le due cose, diciamo, non si collegheranno mai. Faccio l'esempio geografico, ma potrebbe riguardare tante altre aree del mondo e sicuramente le riguarda. Se invece, diciamo, approcciassimo a tutti i paesi del mondo con un'idea di co-sviluppo, di alleanza e di partenariato, in cui il concetto di rete deve essere necessariamente ampio, evidentemente facciamo due cose buone: A, troviamo degli alleati, diciamo, in altre parti del mondo; B, non ci impressioniamo immediatamente da ipotesi di fusione, che chiaramente sono, come dire, il pezzo finale, non può essere la parte, diciamo, iniziale; ci aiutiamo le imprese a capire tra di loro se esistono anche elementi di compatibilità, perché una fusione, un'alleanza non può essere un'alleanza solo matematico-aritmetico, un'alleanza è un'alleanza di culture, è un'alleanza di filiere, è un'alleanza di complementarietà geografiche o di produzione. Cioè, un'alleanza è un elemento di complessità elevato che però nel momento in cui si realizza deve portare al fattor comune una serie di cose, tra cui la cultura degli imprenditori, del management delle aziende, e quindi tutti questi aspetti. Mi permetta di dire che accanto a questo occorrerebbe spingere sempre più affinché le banche ci siano vicine, facendo sempre impresa bancaria, perché non vogliamo regali da nessuno e siamo consapevoli che la banca è di per sé un'impresa, superando o mettendo, direi a Basilea 2, delle attività intangibili, cioè il valore delle risorse umane, la storia dell'impresa, ma più che la storia dell'impresa io penso che in questo momento nel paese e nel sistema bancario per valutare le imprese, ma anche nelle nostre imprese, occorrono esperti del futuro prima ancora che esperti del passato. La mia impressione è che con gli indici matematici noi andiamo solo a valutare una constatazione, un passato, e prescindiamo dal futuro, e siccome l'impresa è fatta prevalentemente di futuro e non tanto di passato, il passato è la garanzia della storia, della serietà, della correttezza di quell'imprenditore, di quell'impresa, di quella famiglia imprenditoriale, se noi non analizziamo anche l'altro aspetto, che forse è quello più determinante in termini di crescita di un'azienda, facciamo delle valutazioni su cui corriamo il rischio, come dire, di rinunciare a pezzi di futuro. Le chiedo, i miliardi non utilizzati nei Tremonti bonds dopo tanta polemica tra il sistema bancario e il ministro, io ricordo che solo un terzo dei 12 miliardi di euro sono stati prenotati dalle banche, meno della metà di questi poi sono stati erogati. Non è possibile, secondo lei, e addirittura meglio, convogliarli poi al finanziamento di questo rafforzamento patrimoniale delle imprese? Il ministro su questo nicchia un po' oggi, lo dico per tutti gli imprenditori in ascolto, c'è su Affari e Finanza di Repubblica una nuova proposta in tal senso che affina anche le modalità tecniche, è firmata da Stefano Firpo e Renato Maino, l'ha trovata anche sulla voce.info, con cui questi 8-9 miliardi di risorse non utilizzate potrebbero essere appunto volte ai discorsi che stiamo facendo per il rafforzamento patrimoniale delle imprese. Si tratterebbe naturalmente sempre di impieghi che passano per il canale bancario, perché lo Stato non può direttamente entrare nel capitale delle imprese, con delle partecipazioni quindi subordinate. Che dice il Presidente? Non sarebbe meglio, piuttosto che non utilizzarli, tentare di convincere il Ministro a questo? Assolutamente sì. Ricordiamo che i Tremonti bond erano, diciamo, delle garanzie che si davano in fondo alle banche. Quindi in questo senso una delle nostre idee su cui si sta lavorando è che forse non è possibile, come dire, utilizzarle nel fondo di capitalizzazione, ma sarebbe molto possibile utilizzarle per il fondo di garanzia, e direi che forse il fondo di garanzia potrebbe anche essere allargato per una parte al potenziamento dei cosiddetti confidi, che potrebbero essere un altro acceleratore per le nostre imprese di elementi di cogaranzia che permettono appunto di superare questa fase in cui la finanza è diventata una delle funzioni strategiche delle imprese, visto il momento che stiamo vivendo. E tra l'altro una iniezione così forte di risorse ai confidi consentirebbe anche di accentrarli, omologarli, visto l'eccessiva dispersione che in alcune regioni poi è un limite alla loro azione. Eccoci tornati in studio, siamo con il neopresidente della piccola industria di Confindustria e cominciamo con alcune telefonate degli ascoltatori. Innanzitutto Sergio dalla provincia di Milano. Prego Sergio, dica. Buongiorno. Dunque, io volevo dire una cosa, no? Ho deciso di telefonare perché ho sentito, diciamo, l'intervento poco fa e siccome si è parlato di territorio, no? Allora io opero, diciamo, nella zona della Brianza, anche se, diciamo, per l'attività che faccio è un po' casuale, insomma, la mia non è un'attività legata al territorio, ma io quello che vedo invece a livello di rapporto con il territorio è la solita malattia italiana, cioè il fatto che, a parte il fatto che siamo in 100.000 e con 100.000 idee diverse, ma non ce n'è uno, diciamo, che interagisce con il territorio. È vero che il territorio spesso considera le imprese quasi un corpo estraneo. Io un'esperienza del genere l'ho vissuta quando lavoravo in Olivetti a Ivrea, dove ho visto una città, diciamo così, che nel passaggio tra la gestione della famiglia Olivetti e la gestione dei Benedetti praticamente ha cambiato completamente l'atteggiamento nei confronti della fabbrica, che è veramente diventato un corpo estraneo, un corpo da sfruttare a tutti i costi. Però non dimentichiamoci una cosa, che nel resto dell'Italia praticamente le aziende italiane detengono il triste primato di essere quelle che operano meno nei confronti del territorio, cioè con il territorio le aziende italiane non c'entrano niente, non fanno niente, non collaborano, e quindi poi è evidente del territorio le consideri un corpo estraneo o comunque qualche cosa di slegato. Grazie Sergio, cioè lei sostiene c'è una responsabilità anche dell'impresa troppo diffusa, che è troppo concentrata sul proprio modello, sui propri clienti, sui propri mercati, e fa poco per radicarsi come sistema nel territorio. Poi chiediamo a Boccia cosa ne pensa, poi abbiamo anche Felice da Monza, prego. Sì, la ringrazio, velocissimo. Volevo parlare dell'automobile, questo settore che è continuamente foraggiato e che è, secondo me, abbastanza penoso da foraggiare, perché l'automobile ha ancora adesso una resa energetica che farebbe ridere Leonardo da Vinci. Volevo chiedere se la piccola e media impresa non dovrebbe lottare più duramente contro questo continuo foraggiamento del settore auto, mantenuto continuamente in perdita, Termini Imerese, Docet, ancora ultimamente. Oh, Felice dimostra, ohimè, questo non lo sapevo, Presidente Boccia, ohimè, vengono anche domande un po' ruvide e scabrose, fa parte del mandato, per così dire. Del resto lei lo sa che c'è un dibattito aperto nelle imprese italiane, cioè quando Coin un mese fa disse all'assemblea proprio territoriale ma insomma, perché dobbiamo vedere che solo l'auto e il settore sostenuto, se ne scese la strada gli applausi, e quindi non è proprio Felice da Monza pone una questione alla quale chi poi fa rappresentanza all'impresa è giusto che dia una risposta, perché molti iscritti insomma non è che siano proprio così felici. Allora, due cose. Sulla prima domanda poi subito rispondo alla seconda, chiaramente. La prima è vero, c'è stato questo distacco, diciamo, di questa impresa Comunitassi, però è anche vero che l'imprenditoria italiana, molta di essa, diciamo, anziché dislocale, ha un cuore radicato nei propri territori. Ecco, questo aspetto di legame alle persone, che è un legame indiretto al territorio, e quindi non dislocare in quanto il tuo cuore viene dal tuo paese, dalla tua città e dal tuo radicamento, è un elemento che non dobbiamo perdere, dobbiamo stimolare. In questo ha ragione Sergio, come dire che dobbiamo aprire ancora di più le nostre imprese. Riguardo all'automobile, io penso questo: è evidente che se negli altri paesi ci si muove per difendere l'industria automobilistica, è altrettanto evidente che dobbiamo farlo anche noi, perché a me non va, come dire, vedere in un futuro macchine, diciamo, tedesche nel mondo e non vedere più italiane, perché noi siamo stati eccessivamente liberisti e dogmatici e gli altri invece con un violento pragmatismo hanno difeso l'industria automobilistica. È altrettanto evidente che non possiamo avere una priorità su un settore, anche se, diciamo, gli incentivi riguardano la filiera dell'automotive e quindi tante piccole imprese, ma è altrettanto evidente che quando parliamo di politica economica per le imprese, le due cose sono complementari e non antitetiche, cioè bene sicuramente difendere l'industria italiana attraverso anche l'industria automobilistica, se abbiamo attacchi da altri paesi, perché questi sono stati, nel senso di difesa di quel settore, ma è altrettanto vero che accanto a questo occorre una politica di agevolazione per tutte le imprese, perché qui non ci sono settori nobili e non nobili, ma tutti gli imprenditori sono nobili a prescindere dalle dimensioni e dai settori. Senta, le posso chiedere in chiusura anche una nota per il Mezzogiorno? L'impegno di questa Confindustria è quello di una battaglia molto esplicita, come non si era mai visto prima, nel sistema associativo per la legalità, con grandi pezzi territoriali di Confindustria, la Sicilia, la Campania, eccetera, eccetera, che iniziano a fare campagna dicendo la promuoviamo così attivamente che se le imprese che non rispettano le regole siamo i primi a espellerli dai nostri stessi ranghi. Perché è stato necessario dal suo punto di vista questo innalzamento? È la politica che non fa bene il suo mestiere, oppure in realtà l'involuzione è complessiva, riguarda tutti, qualunque ambito della società? Io penso che sia stato necessario per due elementi. Uno, per uno shock culturale che dovevamo dare, e il secondo perché volevamo, e forse, diciamo, questo non è stato mai detto, ma si voleva far capire al paese che all'interno di tanti preconcetti negativi e di tante vere cose che non vanno nel Mezzogiorno, c'è una parte sana, una parte buona, una parte che ha voglia di reagire, una parte che non ha dislocato, perché la parte più semplice sarebbe stata, la scelta più semplice sarebbe stata spostare le aziende in altre aree del mondo, in altre aree del paese, diciamo, più serene. queste persone non solo hanno deciso di lasciare le aziende, diciamo, nel mezzogiorno, ma hanno deciso, diciamo, di farne una battaglia culturale di rinnovamento, di modernizzazione, di lotta contro tutte le mafie, la corruzione, gli appalti pilotati, i lavori, il lavoro nero, i luoghi insicuri. E mi permetta di ringraziare questi colleghi, perché quando vedo alcuni miei colleghi che solo per aver dichiarato la questione, appunto, di non pagare, di invitare a non pagare il pizzo, avrebbero escluso appunto le aziende e le associazioni, alcune di queste persone vivono sotto scorta e non è, diciamo, da scelta di imprenditori vivere sotto scorta. Va bene, allora Presidente Boccia, io la ringrazio e naturalmente l'impegno è a rompere spesso le scatole, vedrà che capiterà, e quindi si deve un po' rassegnare, perché la sua vita diventerà ancora più al servizio di tutti gli iscritti per la piccola impresa in un paese che può dedicare meno degli altri all'impresa e che proprio per questo deve concentrare, scegliere le sue selezioni, e la politica si deve rassegnare su questo a beccarci un bel po' di sacrosante polemiche, secondo me. Ringrazio regia Filippo Aureggi, ringrazio la redazione Alessandro Marco Tulli, la linea al Giornale Radio, appuntamento a domani.